Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Genova, primavera 98. La sigaretta del serial killer. Il mio capo è uno stronzo, il mio fidanzato anche, ma il mio vero problema stasera è arrivare a casa viva. Poiché il mio capo è uno stronzo, ho preso il treno dalle 20:20 ed è già buio. Poiché il mio fidanzato è altrettanto stronzo, non ci sarà nessuno ad aspettarmi in stazione, a Rapallo. Ma è lì che abito, ed è a Genova che lavoro. Sono una pendolare della tratta Brignole 20 Miglia. Questo sono e questo ero, anche prima del serial killer dei treni, quel bastardo. La sigaretta è finita, il treno sta per partire. Butto il mozzicone, ma avrei voglia di accendermene subito un'altra. Tasto il pacchetto in tasca, è un gesto mio, una specie di tic che in qualche modo mi dà coraggio. Salgo. Il treno è vecchio, scrostato, sporco come sempre, ma stasera il degrado non è solo brutto, stasera fa paura, ti artiglia lo stomaco e ti spezza il respiro. Le donne viaggiano tutte insieme, ce l'hanno detto tutti, poliziotti, bigliettai, controllori, ma ci saremmo arrivate anche da sole comunque. Ci guardiamo con gli stessi occhi, qualcuna tenta un sorriso, dopotutto ci diciamo non può succederci niente. Sui vagoni c'è ancora un bel po' di gente, nessuna di noi si sposterà, nessuna di noi andrà in bagno, perché è lì che l'ha uccisa quella dell'altro ieri, e poi sui binari c'era la polizia, un signore dice anche che due sbirri sono saliti sul treno. Mi sono portata un giornale, provo a interessarmi alle nuove collezioni, ma la paura mi schiaccia lo sterno e non riesco a finire i respiri. Muovo qualche passo tra i sedili, arrivo alla fine dello scompartimento. C'è un tizio che sta fumando vicino alla porta, in quell'interregno che c'è tra una carrozza e l'altra. Ucciderei per una sigaretta, mi dico, e poi mi accorgo che io lo conosco quel tipo lì. Me l'ha presentato il mio fidanzato, stronzo, una sera che mi ha portato a giocare a biliardo in una bisca nei vicoli del Porto Antico. C'erano certe facce, ragazzi. Poi invece c'era questo signore così distinto, così per bene. Aveva vinto ai dadi, mi sembra, e si era sputtanato tutto, facendo arrivare ostriche e champagne da non so quale ristorante lì vicino. Un vero signore, insomma. Mi frugo in tasca, tasto ancora il pacchetto. Mi fa accendere, gli sorrido. Lui, con una galanteria d'altri tempi, mi porge uno zippo d'argento. Meno male che c'è lei, sospiro gustandomi la prima boccata di fumo. Con quel bastardo in giro ho un'ansia che lo so solo io. Ma si ricorda di me, sono Paola, la ragazza di Gabriele. Lui accenna un sì. Lei è il signor Renato, vero? Donato, mi corregge, Donato. E poi continua a fumare assorto. Tre ne ho fumate alla fine, e così sono quasi arrivata, scendo alla prossima. Il signor Donato ha parlato poco, però è stato gentile e protettivo. Grazie ancora della compagnia, gli dico prima di scendere, e spero di rincontrarla qui in treno, quel bastardo mi fa troppa paura, speriamo lo prendano in fretta. Già, mi sorride, ma comunque stia tranquilla, secondo me lei non è il suo tipo. Un vero signore, lo dicevo io. Laura Campiglio, in libreria con Chi dà nome agli uragani. Editore Dario Flaccovio, 202 pagine, 13 euro.